Ladies and gentlemen, and now Alessandro Milan and Oscar Giannino. Licenziato! Voi due siete superficiali, sciocchi, il simbolo di una vita sprecata. Basta! Basta! Basta! Prendi due elementi innocui se separati come nitrato e glicerina. Combinali insieme e avrai un esplosivo potentissimo. 24 mattino. Attenti a noi due. Oggi è Santa Donna, no, caro Oscar. Non è no. Santa Donna, no. È la festa donne. Della donna grazie a un errore giornalistico. Ah, come sempre. Ecco, l'imprecisione del nostro mestiere pretende che oggi sia l'anniversario di un certo incendio in una fabbrica in cui morirono 129 operai, se non che non è stato oggi. Perché esatto. In realtà quanti danni abbiamo fatto noi giornalisti nella storia? E continuiamo a farne. Parecchi, però ne fanno peggiore quelli che chiudono i giornali e ricattano l'Europa con 3 miliardi come sta facendo Erdogan. Devo dire. Abbastanza. C'è niente di peggio, devo dire, di un giorno dei giornalisti, duro, ma peggio dei giornalisti. Ma i santi prima, aspetta, prima i santi. Io oggi dei nomi, perché al di là di San Giovanni di Dio, classico santo della Controriforma spagnola del 500, fondatore degli ospedalieri, però poi c'è Apollonio, Filemone, sì. Botmaule, Litifredo, Probino, Senano, Veremondo. No, io vi dico, no, beh, del resto, no. Sai, nei secoli la cristianizzazione degli altri popoli pretendeva che i santi di tutti gli altri popoli. Cari ascoltatori, dite la verità, secondo me ogni tanto basta ne infila qualcuno, basta ne infila qualcuno di suo. Non siamo di questi dubbi. E soprattutto oggi, nel 1844, re Oscar I di Venere di Norvegia, di Svezia, questo per me è la festa vera, per carità, non per tocchiamo carità. Le donne perché sennò si arrabbia. No, però, quindi sei stato re di Svezia? Di Norvegia e Svezia, Norvegia e Svezia. Oscar è un re tipico direi di Svezia e Norvegia, perché Ansgarius in latino era l'immagellizzatore dei danesi, infatti è sepolto, sono andato col piedino nella cattedrale di Copenaghen perché sta lì i resti. Cioè sei andato col piedino per toccare dove il re Oscar, dove no, il tuo re? Dove Sant'Oscar, cioè Sant'Ansgarius. Marius, martire del VII secolo, a un certo punto diceva ai re cosa fare, i re hanno detto senti vieni qua che ti accorciamo un pochino per così dire. Allora, secondo te la Turchia ricatta? Beh, è un bel ricattone la Turchia, mica male, cioè volevamo 3 miliardi, no, anzi ne vorremmo 6. No, anzi, volevo sempre di più, scusate, voi chiudete gli occhi al fatto che non c'è libertà di stampa, io occupo i giornali, faccio quello mio. Posso dire, viva Renzi che si è impuntato a dire no, se tu non prendi impegno sulla libertà di stampa io non voto, perché a stanotte è rimasta così la faccenda. Sì, che poi bisogna capire quali impegni uno possa prendere, cioè dice rispetterò i giornali, io farò adeguare la mia linea che è quella della verità. Datemi 6 miliardi e rispetterò i giornali. Però questo secondo me dà l'ennesima dimostrazione della inazione dell'Europa, cioè l'Europa è frantumata, non esiste più. Io non so, io ho amici in Gran Bretagna che mi dicono "Bah, oggi non riusciamo a capire chi possa riuscire a convincere al referendum i cittadini britannici a restare dentro". Dici? Vedremo come va a finire. Dice sì, la City, le imprese, le banche, ma la gente comune dice "Boh, ma basta sì, a che ci serve l'Europa? Apri i giornali". Sono divisi su tutto. Se uno appena si informa, che ne so, per esempio, la capriolona di Vienna, no? Vienna è andato il premier austriaco a visitare i campi profughi in Grecia a ottobre, ha detto no, i muri, Orban è un disgraziato, non ha detto proprio queste cose, adesso vuol mettere il muro lui. Sì, no, è veramente un... Cioè, proprio ognuno. Però posso dire che questo ascoltatore che ci dice, per favore, fate gli auguri, buon 8 marzo a tutte le donne musulmane trattate peggio delle, adesso io non voglio dire bestie, vabbè, delle bestie, soprattutto quelle che vivono in Italia, patria dei diritti, ma non è dovere, l'inno d'Avellino, sì, mi sembra però non tutte le donne musulmane, no, adesso non, ma non, in non... particolare a quelle che, ecco, questo sì, io credo, sono occupato in trasmissione, il tema di tantissime ragazze musulmane costrette a matrimoni controvoglia, ritirate dalla scuola e così via, ci ricorda che noi non riusciamo poi a chi viene nel nostro paese a dire sì, però tu le regole devi rispettare, non è che puoi ritirare tua figlia dalla scuola perché ti deve servire a casa. Comunque sì. No, ma è assolutamente Lino da Avellino, insomma, vuole fare questo augurio particolare l'8 marzo. In tutto questo, caro Oscar, i nostri ascoltatori ci possono chiamare all'800 24 0024. Oggi parleremo anche di cose diverse, varie. Avremo la vedova di David Rossi. David Rossi era il capo della comunicazione di Monte Paschi Siena, che a questo punto cosa bisogna dire? È caduto da una finestra 3 anni fa. È morto cascando dalla finestra. Chi lo ha conosciuto non ci ha mai creduto. la vedova, la signora Togliazzi è una persona straordinaria che da 3 anni, perché è accaduto 6 marzo, 3 anni fa, si è impegnata per avere giustizia, per la riapertura dell'indagine che aveva detto suicidio. Tante cose non tornano, perché dagli esami autoptici si vede che ci sono tracce di ecchimosi, non torna la traiettoria da Rocca Salimbeni, cioè dalla sede di MPS da cui è caduto il cadavere, non tornano le manomissioni delle camere di sicurezza, delle telecamere di sicurezza. Questa signora merita rispetto di tutti, secondo me, non solo perché lei ha il diritto dovere di sapere tutto di proprio marito, dalla fine del proprio marito, ma perché si sta impegnando a fare chiarezza, visto che la procura l'ha dato retta, per capire se all'interno di MPS, che resta la banca più insanguinata dal punto di vista finanziario ancora oggi, dopo tre anni il mondo intero guarda lì e dice ma ancora non la mettete a posto, ma per capire se dentro c'erano anche menti e mani omicide. E ne parleremo più avanti. E poi certo c'è questo video che ha un po' colpito tutti sulle primarie a Napoli. Il sito fanpage.it ha mandato in onda questo video di gente che pagava l'eurino che bisognava dare per votare. L'audio non è molto chiaro, ma è questo. Si capisce no Bassolino, no, cioè devi votare valente, questo era un video. Ma si parla di dazioni di denaro alle primarie. Queste primarie noi le dobbiamo fare sempre, per carità, sono una buona cosa in principio, ma perché vengono fatte sempre con pasticci, con... I partiti non lo vogliono ammettere che hanno perso verticalmente ciò che pretendono di essere. Il controllo? No, ciò che pretendono di essere. Loro pretendono di essere luoghi elevati di indirizzo culturale politico. Alla fine sono delle congreghe di votanti per clienti e d'affari. Perché quelli che erano fuori, questi qua, sono consiglieri municipali e comunali. Sì. Che quindi devono fare i procacciatori di voti e danno i soldi. Ma per un euro, per un euro. Ma tu ti rendi conto? Un euro. Peraltro anche a Roma i numeri, basta leggere il Messaggero, non tornano, perché non tornano perché le preferenze della somma dei candidati fa 43.000 rispetto alla somma dei votanti invece dichiarata, ci sarebbe un'esplosione di voti bianchi e nulli che non torna, perché la gente deve andare a pagare un euro alle primarie per poi votare. Esatto, per votare scheda bianca. Migliaia e migliaia di persone. C'è qualcosa che non va. C'è qualcosa che non va. Nulli magari uno può sbagliare, ecco, si può dire. Bianche a migliaia addirittura. Sì, esatto, andare a votare alle primarie per votare scheda bianca. Mentre sono dimezzati gli elettori, anzi più che dimezzati gli elettori a Roma, si sono più che quadruplicati in proporzione il numero di schede bianche. Non torna. Forse ha ragione Gramellini, che sulla stampa scrive le ultimarie, se non fosse implicato appunto la leadership di Renzi e i suoi candidati, in altri tempi avrebbe cacciato subito. Si dice più che altro il Renzi, quello rottamatore, forse avrebbe detto subito basta, qua c'è qualcosa che non va, rifare tutto in maniera più chiara, in maniera, no? Definitiva. E invece no, vanno bene queste primarie, non lo so. Dall'altra parte nel centrodestra invece c'è un po' la confusione sotto il sole di Roma, soprattutto. Senti qua, Bertolaso ha usato un'espressione, come dire, sentila qui, vado avanti. La mia storia insegna che quando mi impegno in una vicenda, ancorché la più difficile, poi alla fine riesco a risolverla. Quindi se sto continuando e sto andando avanti come una ruspa, significa che sono convinto di riuscirci. Vado avanti come una ruspa. Ora, è il suo retaggio culturale da Protezione Civile o è salviniana questa dichiarazione? Ci lasciamo con questo dubbio. Sì, lasciamoci con questo interrogativo, perché è meglio non rispondere. Vado avanti come una ruspa. Del resto leggo che Berlusconi candida su Bertolaso come leader del centrodestra nazionale per le prossime elezioni. Vabbè, ma è chiaro che in questo momento lo deve spingere in tutti i modi per farlo digerire a Salvini, poi dopo quando sarà semmai digerito dirà ma no, il leader di centrodestra sono io. Basta, sia chiaro che questo è la carica che viene data, mamma mia. Sì, è una carica di leader di centrodestra temporaneo per il tempo di farlo digerire, di avviarlo a una sconfitta. Beh, adesso insomma questo sì, i sondaggi così dicono, può essere, può essere. Però mi ha molto colpito che a sinistra si dividono, anche sai che c'è Fassina che si candida alla ma sinistra. C'è l'ex ministro Brai che si candida, quindi c'è la divisione e Fassina e la lite anche le primarine anche le primarine e Brai invece dice no ragazzi, è la corsa più pazza del mondo. In tutto questo ricordiamo il nostro amico Mario Di Nolfi, popolo della famiglia. Il popolo della famiglia, d'accordo. Detto questo, capisci che tra i soldi fuori i seggi, i numeri che non tornano a Roma alle primarie, i candidati anche a sinistra che non riescono a candidarsi al PD senza rivelare che non hanno un accordo sulle regole con cui ci si candida, è come sempre, io credo, una bella campagna elettorale gratis per chi dice i vecchi partiti mai più, si tratti dei 5 Stelle, si tratti di Marchini a Roma, però è ovvio, cioè, sembra che questi lo facciano apposta dagli argomenti per dire i vecchi partiti sono morti e responsabili del passato, non lo so, a me sembra questo. Un po' così. Allora, ci ha molto colpito tutta l'Italia anche la disfida alla Reggia di Caserta, caro Oscar, dove c'è il direttore che lavora troppo secondo i sindacati e dove si è scoperto che ci sono, secondo Il Mattino, persone che vivono dentro la Reggia di Caserta, ovviamente in modo abusivo, pagando canoni da 15 euro, 15 euro con tanto per di stare nome di casa alla Reggia, esatto, e che bello stare alla casa alla Reggia di Caserta. Non so, vogliamo salutare il sottosegretario al Ministero per i Beni Culturali, Ilaria Borletti Buitoni, buongiorno e benvenuta. Buongiorno. Beh, bello vivere alla Reggia di Caserta, no? Lei... Beh, soprattutto bello per 15 euro. Sì, esatto. Mi pare che sarebbe fantastico, no? Ma com'è possibile una cosa del genere? Perché non vengono sfrattati in due giorni? È come la storia delle case a Roma, cioè in Italia c'è un malcostume diffuso che ha durato decenni, che è stato anche denunciato qualche volta, poi vuoi cambiamenti di sovrintendenti, vuoi altre distrazioni, non si è mai poi andati fino in fondo per cercare di risolvere il problema. Però questo direttore, a cui ci tengo a manifestare tutta la mia simpatia, stima e solidarietà, credo che finalmente potrà risolvere il problema alla radice e quindi potrà finalmente riportare alla Reggia degli spazi che sono impropriamente occupati, appunto le cifre che stiamo dicendo. Forse i sindacati nel fare quel documento hanno commesso l'errore di accendere un faro su una situazione che, se non avessero fatto quel documento, sarebbe rimasta, non lo so, per il momento non se ne sarebbe parlato come se ne sta parlando, ecco. Ma io sì, anche se, ripeto, quel problema degli affitti bassi era un problema che già si conosceva a Caserta, quindi sono sicura che questo direttore prima o poi l'avrebbe affrontato. Sa, come sempre quando si parla di queste situazioni che sono profondamente ingiuste, non è che si risolvono in 24 ore, perché poi c'è gente che ci abita in quelle case, quindi anche se impropriamente, ingiustamente, però ci abitano, quindi non è che uno lo risolve da un giorno all'altro. Io sono sicura che questo direttore, che ha dimostrato un polso veramente straordinario, l'avrebbe risolto. Sa, certi sindacati o si rendono conto che nei beni culturali la musica è cambiata. Io mi ricordo molti anni fa un grande museo italiano, e non era al sud, in cui i sindacati hanno indetto degli scioperi perché non si volevano mettere la divisa. Io credo che la musica debba essere cambiata per tutti, lo è per i funzionari, lo è per i dirigenti e deve esserlo anche per tutto il personale di custodia, che naturalmente deve far parte di un progetto di valorizzazione, no, sarà anche difficile rilanciare i nostri beni culturali. Sì. Ma secondo lei la rivoluzione, la musica è cambiata, come dice lei, cioè il criterio delle nomine nuove per i 10 maggiori anche dall'estero, ma comunque per quelli nazionali con criteri di nomine per merito, aperte tutto il sistema, e in fondo anche l'accusa al nuovo direttore della Reggia di Caserta è quello di venire da fuori, cioè poi Bologna fosse chissà dove, secondo lei ci sono ancora delle resistenze forti all'interno del corpo del MIBAC, non solo nei sindacati, perché lei sa che c'è un dibattito aperto all'interno del MIBAC di figure di riferimento culturali e dell'amministrazione che non ci si ritrovano in questi criteri, secondo voi, lei in particolare, ma è semplicemente un dibattito o le resistenze sono così forti come dire, beh, insomma, questi dureranno ma alla fine si tornerà ai vecchi criteri? Guardi, quando io sono arrivata al Ministero, la prima sensazione che ho avuto, anche benevole, è che mi si guardasse dicendo tanto questi durano poco e poi se ne vanno. Non c'è dubbio che un Ministero che ha oltre 17.000 persone, che è stato gestito da governi che hanno durato mediamente 2 anni, sia un Ministero in cui il politico viene guardato come un elemento transitorio. La riforma che ha fatto il Ministro, che è una riforma secondo me che punta verso degli obiettivi sacrosanti, è una riforma che tocca la carne viva del Ministero. Quindi evidentemente ha creato resistenze e preoccupazioni, alcune anche legittime, perché per esempio sul territorio le soprintendenze sono in difficoltà per mancanza storica di mezzi e di funzionari, quindi naturalmente per loro la riforma è difficile. Ma detto questo, credo che ci si arriverà. Finalmente la pagina è girata, e soprattutto penso che con l'immissione dei 500 nuovi giovani che verrà fatta quest'anno in tutti i campi, dagli archivisti agli archeologi agli storici dell'arte, si metterà un'altra mentalità. Ed è una mentalità che contagerà anche quei funzionari più resistenti, trovando poi sponda invece in quelli che sono desiderosi di vedere il loro merito riconosciuto, e ce ne sono tanti, tanti, tanti, sì. E molto bravi. Sì, c'è da dire che effettivamente però il fatto che siate un po' transitori come politici un po' è anche vero, nel senso che il funzionario dice io sto qui, sono dipendente, possono rimanere tanti anni ma prima o poi cambieranno, ecco, i politici. Beh, certo, e poi sa, le riforme in Italia prima che vengano attuate, che ci sono i decreti che le attuano, che insomma, ci vogliono dei tempi infiniti. Io me ne sono accorta venendo da un mondo, diciamo, privato, anche se del terzo settore, che il ministero è un mondo a parte, è una corte quasi, quindi una corte imperiale. Quindi è chiaro. E giustamente quindi c'è chi vive nella reggia di Caserta, borbonica. Vive nella reggia di Caserta, ma insomma io sono fiducioso anche perché mi pare che i risultati si comincino a vedere. E poi questi 10 direttori italiani o esteri che siano, sono comunque persone che hanno portato una ventata di così nuova nei modelli di gestione. E questo qualche cosa inciderà. No, ma è chiaro, è come buttare dei semi, insomma, qualcosa nel tempo. Sono dei semi, ma succederà. Sono dei semi che secondo me daranno dei frutti positivi per tutti. Allora, in attesa di capire anche questa vicenda della reggia di Caserta come si conclude, noi la ringraziamo. Grazie, Ilaria Borletti Buitoni, ricordo sottosegretario. Grazie a voi. Al Ministero per i Beni Culturali. Diciamo che in un paese ideale ci vorrebbero dei poteri perché quei sindacalisti potessero essere cacciati su due piedi. Addirittura il sindacalista. Io mi accontenterei di cacciare quelli che vivono lì dentro in maniera abusiva. Penso. Tu anche il sindacalista. Ma io penso che ci sono. Beh, ha detto una cavolata, però non per questo. No, ma è un atto formale. Cioè, sindacati che scrivono, si ferma la notte e quindi ci costringe, siccome non ci dice gli orari, a dover immaginare noi i turni di custodia. Poi in realtà, se vai a vedere la lettera contesta al direttore di fare rotazione del personale, mica sono solo gli orari. Cioè, ma questo è non il punto. Solo, c'è cioè il martedì, questo direttore ha tolto il martedì, credo, di riposo. Che prima era chiuso, invece lui tiene aperto sette giorni su sette. Non si fa. Va bene, caro Oscar, allora, come detto, dopo la pubblicità, e se volete chiamarci all'800240024, qualcuno ci manda sms sul vizietto dell'Eurino per le primarie, me lo dava mio nonno, non l'Eurino, ma la Milla Lire. Cioè, la Milla Lire. Vabbè, insomma, dopo la pubblicità avremo ospite, come detto, Antonella Tognazzi, la vedova di Davide Rossi, sì. Capo della comunicazione di Monte Paschi Siena. Perché c'è stato anche, tra l'altro, una grande solidarietà di Siena, cioè c'è stata una fiaccolata, una manifestazione a dire vogliamo capire fino in fondo davvero che cosa è successo. E devo dire una cosa, non ci accontentiamo di all'inizio, quella versione. Quando la gente ancora non aveva capito, non capiva, noi che ci scaldavamo anni fa, fin dall'inizio della vicenda del MPS, Antonella è stata lasciata molto sola nella città per la sua richiesta di guardate che non me la contate giusta, ci sono ancora connivenze pesanti. Poi quando è esploso nell'ultimo anno la vicenda che ha colpito gli azionisti e i risparmiatori di Siena, finalmente certo. La gente ha capito che non è un'istanza solo per sapere personalmente per i loro familiari, per la giustizia dovuta loro, ma riguarda tutti, perché c'è troppo non detto gravissimo. Dire, se la versione, seguendo questa versione, la versione è non è un suicidio ma un omicidio, questo vuol dire che ci sarebbero dei mandanti e questo significa che c'è qualcosa di clamoroso alle spalle. Qualcosa di impensabile occultare il più grave scandalo bancario come Parma, cioè, questa volta con morti però. Allora dopo la pubblicità state con noi. E allora le 8:41 minuti. Già 41 minuti, ragazzi. 8:41 minuti, esatto. Tra l'altro ci chiama Francesco da Siena, forse per la manifestazione. Allora, siccome abbiamo ospite la signora Antonella Tognazzi, che salutiamo, buongiorno signora Antonella, grazie di aver accettato l'invito, grazie di essere qui. Buongiorno e grazie. Buongiorno a voi. C'è Francesco che ci chiama da Siena, perché abbiamo già introdotto l'argomento. Francesco, buongiorno, che ci vuole dire? Sì, buongiorno, senta, io intanto vorrei fare una premessa e ricordare quando Giannino venne a Siena all'Hotel Garden a parlare dei disastri di Mussari riguardo all'azienda Montepaschi, non so se si ricorda. Sì, all'epoca diciamo non eravamo in molti, comunque vabbè, lasciamo perdere. Sì, No, e poi nacque, per quanto mi riguarda, lì io apri gli occhi, no? Perché io sono di 50 anni, vivo questa realtà e faccio le condoglianze alla vedova Rossi, però è stata una partecipazione spontanea e, come è stato detto dalla famiglia, dagli organi di stampa e da chiunque altro a Siena, che non era, doveva essere una manifestazione con una connotazione politica. Certo. Invece, se si riesce a dimostrare, se è dimostrato che questo non è un suicidio, ma è un omicidio, secondo me è un omicidio politico. Perché a Siena, nella provincia di Siena, è da 50 anni che comandano certe persone un determinato partito, e a Siena e nel Monte dei Paschi non si muoveva e continua a non muoversi foglia senza che loro decidano la vita e le sorti delle persone e della città, non capisco come questa manifestazione non sia stata collocata dentro una cosa politica, perché secondo me è molto politica. Allora, Francesco, intanto la ringraziamo per il suo intervento. Prima c'è da capire effettivamente. Però Francesco, guardi, io posso dire una cosa. Per rispetto, non so, Davide Rossi, per chi l'ha conosciuto, io ero come tanti colleghi, l'ho conosciuto e sentito fino agli ultimi giorni, perché era il nostro mestiere farlo. Ma detto questo, non solo per la memoria di Davide, ma e non solo per il rispetto per l'impegno che ha profuso e continua a approfondire Antonella, ma proprio per la vicenda in sé, non la buttiamo in politica. Noi dobbiamo occuparci del fatto che la riapertura delle indagini faccia giustizia, ci faccia capire tutte immagini possibili che non tornano nei filmati, nelle prove, nelle ricostruzioni. Dopodiché si passerà al tema degli esecutori e dei mandanti eventuali. Se la mettiamo in politica diventa una storia più complicata. Già la giustizia, già è un grande successo aver riaperto l'indagine. Adesso siamo concentrati su questo. Tra l'altro, ecco, signora Antonella, lei ha mai creduto alla versione del suicidio di suo marito? No, cioè, perlomeno appena fui convocata dai magistrati, i magistrati mi posero davanti questa realtà e nell'immediato io sinceramente non capivo obiettivamente veramente cosa poteva essere successo, e quindi all'inizio presi un po' per buono, diciamo, quello che loro mi dicevano, salvo il fatto che immediatamente dopo, realizzando tutta una serie di cose, incominciamo ovviamente a dubitare di questa versione. Ecco, che cosa? Cioè, cosa vi ha spinto a credere e a manifestare da subito, ci fa capire, i dubbi su questa versione iniziale? Beh, inizialmente furono proprio i biglietti che Davide mi lasciò, che riportavano determinati termini che lui volutamente non usava mai, e già lì iniziai ad avere dei dubbi su quanto mi lasciava scritto, e immediatamente dopo cominciammo a controllare tutti gli apparecchi informatici che ci avevano dissequestrato per andare a cercare un qualsiasi elemento potesse aiutare a capire semplicemente questo. E da lì incominciammo a verificare che tutta una serie di cose che ci venivano dette non corrispondevano al vero, o comunque non erano complete come tipo di informazione a noi data. E da lì appunto incominciamo un lavoro di ricerca che poi ci ha portato a scoprire determinate cose che noi immediatamente abbiamo comunque prodotto alla procura stessa, insomma, proprio per aiutare, ecco, il nostro intento era proprio quello di aiutare la magistratura a cercare veramente una verità che non poteva essere quella che da subito ci illustravano, insomma. No, tra l'altro ci sono alcuni particolari, appunto, come diceva Oscar Giannino, la telefonata, l'agenda sparita, testimoni mai convocati, immagini delle telecamere che sono state manipolate. La traiettoria del corpo non è caduta. Addirittura si parla di un orologio, l'orologio di Davide, che è caduto dopo, quando lui era già con il corpo per terra, no? Sì, ora nel senso, io mi scuserete, ma ovviamente certe cose non l'ho volute vedere, ho preferito deletare, persone si sono prestate ovviamente a questo. Sì, uno degli elementi appunto è questo oggetto che cade, che viene proprio lanciato. Ed è l'orologio, ed è l'orologio. Per la nostra ricostruzione è l'orologio. La procura sostiene che non è, ma non argomenta e non dice che cos'è. Cioè, io dico che per dire che una cosa non è, bisogna saper dire che cos'altro è, altrimenti non si può negare, non si può escludere che possa essere quello, non si può escludere che possa essere quello. Ecco, l'analisi in realtà è questa, e quello che chiediamo noi appunto è un'argomentazione, una spiegazione a tutti quegli elementi, quei dubbi che noi abbiamo sollevato. Ma è vero che c'erano anche delle persone che non sono state convocate, che erano lì sul luogo di... Risultano perlomeno 15-16 persone presenti e non sono state... Non sono state identificate o non sono state cercate? Perché? Non sono state proprio interrogate, cioè non è stato chiesto loro che cosa facevano a quell'ora dentro alla banca e a che titolo, e proprio non sono state prese in considerazione, cioè non sono stati fatti tutti quei rilievi necessari per capire in quel momento tutta la situazione com'era. Vabbè, è chiaro che qui viene per parte mia la domanda, se vuole, più difficile, perché stando a questa versione ovviamente signora Antonella vuol dire che c'è dietro qualcuno dietro questo gesto, e lei si è fatta delle domande, ovviamente non sono domande alle quali deve rispondere lei, però se fosse questa la versione vuol dire che qualcuno lo ha ucciso. Cioè, che dietro ci sia ben altro è appunto evidente da tutti, appunto, ripeto, gli elementi che sono emersi. In ultimo la perizia calligrafica del professor Sofia, che evidenzia proprio una costrizione nella scrittura, portata tra l'altro dalla perizia medico-legale, che riporta appunto segni di afferramento, contusioni e quant'altro nel corpo di mio marito. Come se ci fosse stata una colluttazione. Come se ci fosse stata inizialmente una colluttazione e poi appunto una costrizione a inscenare evidentemente un suicidio, che però, ripeto, David sicuramente mi ha in qualche modo, diciamo, comunicato attraverso l'uso, ripeto, di termini che lui non usava mai, ma volutamente non venivano usati da parte sua. Sta di fatto che per capire meglio le circostanze, il tentativo di far risalire una deliberata intenzione messa in atto di suicidio alla perdita di controllo da parte di David, fa parte di una ricostruzione per la quale nelle settimane precedenti anche i giornalisti che lo conoscevano sapevano che lui era entrato in una fase di preoccupazione crescente. Ma la fase di preoccupazione crescente a che cosa si doveva? Al fatto che era diventato palpabile per lui in banca e il fatto che gli tenessero le porte chiuse in faccia e attribuissero a lui, anzi, la fuga di notizie. Era questo che lo procurava, dicendo: beh, qui siamo al colmo, non solo io passo quello che passo professionalmente per le vicende di questa banca, manco ne fosse stato io l'amministratore, ma passo come quello che viola la legge sui doveri di riservatezza. Allora, questa era la fase di tensione che lui viveva con i vertici della banca e che lo spingeva a porsi delle domande. Di qui al farsi carico del dire sto zitto e quindi mi suicido, ecco, questa è una cosa che non torna per niente con quello che noi sapevamo, senza avere alcuna pretesa dai giornalisti che raccoglievano i toni, e tutto era sui toni perché lui diceva pochissimo oramai. Però è l'opposto, come dire, cioè tu rimani senza parole perché dici: ma come? Qua mi fanno il deserto intorno, il deserto intorno, perché è ovvio che lui sapeva tantissimo. Ma questo è chiaro. Però lei da moglie invece, signora Antonella, quei giorni lì, come e se vuole ce li può descrivere, cioè gli ultimi giorni prima del 6 marzo? Gli ultimi giorni Davide era sicuramente sotto pressione proprio per la situazione lavorativa. Ha vissuto molto male quello che è stata la perquisizione, l'attenzione da parte della magistratura nei suoi confronti. Lui non si capacitava del fatto che la magistratura, anziché chiamarlo direttamente in procura chiedendogli quello che volevano sapere da lui, e lui in tutta trasparenza non avrebbe avuto problemi a dire, cioè nel senso, anche perché certe cose lui non le sapeva comunque, perché lui faceva un lavoro di comunicazione, ma ovviamente comunicava quello che gli veniva detto, e quindi lui non si capacitava del fatto che la magistratura avesse ordinato le perquisizioni due volte in ufficio e una volta a casa, e questo lo destabilizzò tantissimo a livello emotivo proprio, perché non riusciva veramente a capire, non essere messo in discussione per lui era un qualcosa che non faceva parte del, cioè lui era una persona molto obiettivamente corretta, trasparente, quindi questi atteggiamenti lo disturbavano, Resta da capire sul fronte dell'inchiesta, lei ha fiducia ora? Perché ricordiamo che è stata prima archiviata con ipotesi suicidio e ora riaperta l'inchiesta. Questa cosa immagino le dia fiducia, no? Su... Sì, è stata archiviata tra l'altro per ben due volte, noi abbiamo richiesto l'apertura per ben due volte e adesso sì, è stata riaperta, sono state riaperte le indagini. Obiettivamente di elementi nuovi c'è soltanto la perizia calligrafica del professor Sofia, in realtà gli elementi su cui si sono basati per la riapertura sono quegli stessi elementi che noi avevamo prodotto già. Singolare. È singolare questa cosa, effettivamente. Come mai allora con gli stessi elementi è stata disposta una riapertura? Per carità, lei dice bene, bene così, però questo sì, pone certo, assolutamente domande. Certo, assolutamente bene così, però sì, certo, anch'io appunto una domanda, cioè molte domande ce l'ho, è evidente. Oscar prima diceva che lei all'inizio è stata lasciata molto sola, adesso si sente... Questa è la mia impressione, assolutamente. Si sente meno sola ora? Sicuramente dopo la manifestazione, dopo la partecipazione della città domenica, per me è stato un grande segnale veramente di presa di coscienza, ecco, di una tragedia enorme per me, ovviamente personale, però anche proprio una tragedia a livello proprio cittadino, ma è nella storia intera plurisecolare di quella città, ma insomma non tocca a me adesso mischiare l'importanza e il rilievo delle condotte, la mala gestione che c'è stata, l'ostruzione alla vigilanza, il fatto che poi alla fine la procura è arrivata tardi a sostituirsi alla Banca d'Italia e ci accontentiamo di una versione di Comodo come se ci fosse tutto chiuso in una cassaforte, lasciamo perdere, è una storia che riempirebbe libri, ma è una storia il cui impatto ha un significato, ripeto, rispetto a secoli interi. Io per questo, io devo dire, io ringrazio da giornalista, da essere umano, perché ammetto, mi risulta difficile non io non mi vergogno a dirlo, quando è comparsa la notizia in agenzia della morte di Dan, per chi lo ha conosciuto, me, Camilla Conti e altri che abbiamo lavorato insieme, noi ci siamo messi a piangere perché e siamo rimasti totalmente increduli, quindi io posso capire la moglie. Io penso che quello che stia facendo la moglie è la caparbietà con cui, quando Alessandro Mina dice ma com'è che i magistrati adesso, prima archivano due volte, adesso riaprono, perché forse conta un po' anche la pressione della società e non solo della signora, nel far capire che questo è un caso in cui c'è la storia da scrivere, non può essere lasciato come una cosa di fronte a cui ogni minimo indizio deve essere preso in considerazione. Io non pretendo di sapere la verità, però troppe cose non tornavano e le archiviazioni non tornavano e il silenzio connivente non tornava, questa è la mia opinione. Allora, per il poco tanto che potremo fare, noi siamo qui. Intanto la ringraziamo molto, Antonella Tognazzi, vogliamo ricordare vedova di Davide Rossi, e ci fermiamo, ci troviamo domani, grazie.